24 mattino. Sono le 8 e 17 minuti, 349-238-6666, questo è il numero per i vostri messaggi e come di consueto parliamo di economia. Soldi e dintorni. Do il ben ritrovato a Deborah Rosciani, eccoci qua Deborah. Buongiorno, grazie, buongiorno a tutti. Allora, oggi ci ho azzeccato, del tema. Sì, voglio vedere. No, proviamo. Perché ieri, come sapete, ho detto un tema che non c'entrava nulla. Ma non è stato poi non esattamente è stato poi così, dai. Mi butto giù. Ti continuo giù a difendere. Oggi parliamo di consumatori, siamo sempre molto attenti a questa fascia, che poi siamo tutti noi, c'è una nuova iniziativa, insomma, parliamo di questo. Sì, parliamo di questa iniziativa partendo da un presupposto. Io sono praticamente quasi certa, Alessandro, che ti sia arrivata qualche volta una lettera in cui ti veniva comunicato che avevi vinto qualche premio senza aver partecipato a nessun concorso e tu naturalmente ci sei cascato e hai abboccato la vendita di una batteria di pentole. Avete visto come mi descrive? Bella, bella considerazione. No, parliamo di pratiche commerciali. No, sono arrivate, ma le straccio dopo preso. Perché tu secondi. Sei insomma un ragazzo preparato e quindi sai riconoscere sicuramente una trappola commerciale. Sembra incredibile, ma molti consumatori cadono in queste trappole commerciali che poi negli ultimi anni hanno assunto delle forme molto sofisticate. La comunicazione commerciale si è fatta molto aggressiva, ci sono le continue telefonate dell'operatore che propongono un nuovo piano tariffario, l'abbonamento alla TV satellitare, cioè l'immancabile venditore porta a porta, forse un po' meno ce ne sono. Ci sono produttori di determinati beni, ma anche venditori che non permettono di usufruire delle garanzie post vendita. Ci sono etichette poco trasparenti che a volte declamano le mirabolanti proprietà di un prodotto alimentare. Insomma, la presa di coscienza di queste problematiche ormai netta ha condotto anche negli ultimi tempi ad una consistente riforma del codice del consumo e allora di questo parliamo, perché tutto ciò nei prossimi mesi sarà al centro di una iniziativa che coinvolge un gruppo delle più grandi associazioni dei consumatori in Italia. Il progetto si chiama Occhi Aperti, stamattina ce ne parla Massimiliano Dona, l'avvocato Massimiliano Dona, segretario dell'Unione Nazionale Consumatori. Avvocato, buongiorno. Buongiorno a tutti voi. Allora, il tema al centro della vostra iniziativa è proprio la pratica commerciale scorretta, ma in realtà saranno 15 mesi di intenso lavoro rivolto ai consumatori. Come si concretizzerà? Ma ci rendiamo conto ogni giorno che non possiamo seguire il consumatore in ogni sua momento quotidiano, dunque il miglior strumento per offrirgli una tutela vera è quella di metterlo in condizione di capire ciò che accade intorno a lui. L'esempio che lei ha fatto poco fa questa mattina è significativo: arriva la classica busta "apra subito, lei ha vinto un premio" nella nostra cassetta postale, ma ormai grazie alla tecnologia molte email anche di tono così accattivante arrivano sul nostro computer. La cosa purtroppo drammatica per certi versi è che i consumatori credono a questo così banale, se vogliamo, strumento di marketing. Ci sono consumatori che partecipano a questi concorsi, che credono al tutto gratis, che credono all'etichetta del prodotto alimentare che ci promette più belli, più sani, senza alcuno sforzo. Ecco, il livello educativo dei nostri concittadini, purtroppo, non per loro colpa, ma per altre emergenze, non è tale da sapersi difendere da questi inganni. E dunque la nostra è una vera e propria campagna informativa che condurremo per 15 mesi, molto capillare, molto concreta, per spiegare come fare autodifesa. Concreta come, avvocato Dona? Io ricordo tra l'altro che oggi tutto il pacchetto di iniziative viene illustrato nel corso di una conferenza stampa che si svolge a Roma alle 10.30, saranno presenti i responsabili delle associazioni dei consumatori che sono coinvolte nel progetto, c'è il Movimento Difesa del Cittadino, il Movimento Consumatori, Cittadinanza Attiva, l'Unione Nazionale Consumatori dell'avvocato Dona, Assoutenti e Confconsumatori. Allora, qualche esempio concreto di come vi muoverete? Dunque, abbiamo deciso di unire le forze. Spesso le associazioni dei consumatori si rimprovera di essere troppe e spesso anche non inclini a campagne comuni. In questo caso abbiamo unito le forze. Dunque, abbiamo realizzato intanto degli sportelli via email dedicati a queste tre tematiche, cioè agli strumenti creditizi, alle pratiche scorrette, alle garanzie post vendita di cui poi parleremo, per rispondere alle domande più frequenti. I consumatori hanno un estremo bisogno di consulenza rapida, loro la chiamano consigli, in realtà sono vere e proprie consulenze rapide, efficaci, perché quando proprio hanno già stipulato il contratto, hanno già abboccato all'amo, è ancora possibile liberarsi dell'aggressione del truffatore, perché il codice del consumo italiano è pieno di norme che garantiscono i cittadini. Penso al diritto di ripensamento, cioè alla possibilità di sciogliersi da un contratto stipulato su internet. No, anche perché, avvocato, giorni. Vorrei anche precisarlo, non è che sono sempre delle truffe, sono delle pratiche, come dire, commerciali, delle campagne di informazioni magari molto aggressive, ma che non nascondono necessariamente una truffa, però diciamo che la sensazione dall'esterno sia a volte appare quella. Bisogna senz'altro distinguere, ma anche il marketing aggressivo, quello della lettera che appunto ci arriva a casa, ma quello di chi vende l'usato sicuro, il garantito che poi garantito non è, è spesso nel mirino dell'autorità antitrust, che presiede proprio alla pratica commerciale scorretta, alla pubblicità ingannevole. Beh, i dati che ci vengono dal presidente Catricalà sono sensazionali al negativo, nel senso che il nostro mercato è purtroppo un mercato dove anche le grandi imprese, questo lo devo dire, penso alla telefonia, penso a un altro mercato liberalizzato recentemente, quale quello dell'energia, ecco, i grandi competitor si sfidano a colpi di tariffe più basse, ma anche a colpi di pubblicità sempre più accattivanti e non sempre trasparenti. Ecco, lei ha citato l'antitrust e quindi l'autorità appunto garante del mercato, che già vigila attentamente intorno a questi fenomeni e comina tra l'altro delle sanzioni anche molto pesanti, non facciamo che raccontare di quelle che vengono erogate nei confronti, comminate nei confronti degli operatori telefonici in particolar modo. Come si affiancherà la vostra attività a quella dell'autorità garante del mercato? Ecco, saremo in stretta collaborazione. Tra l'altro va detto che questo progetto che oggi parte, viene battezzato, è sotto gli auspici del Ministero dello Sviluppo Economico e si avvale delle risorse, proprio di quelle risorse raccolte dall'autorità antitrust grazie alla sua attività di censura di alcuni comportamenti scorretti e grazie alle multe pagate dalle imprese. Quindi è importante anche perché dire tra l'altro questo. Molti ascoltatori, quando parliamo di queste sanzioni, ci chiedono molto spesso, molto frequentemente, ma tutti questi soldi dove vanno a finire? A patto che naturalmente gli interessati poi le versino regolarmente, perché molto spesso fanno dei ricorsi e le pratiche non si concludono neanche in questo senso con il pagamento delle multe. Avvocato. Certamente, infatti quei numeri che spesso occupano i titoli dei giornali a volte, ai noi, sono ridimensionate in sede di ricorso al TAR, perché i provvedimenti dell'autorità antitrust sono ovviamente impugnabili al TAR. Queste somme finiscono in un fondo presso il Ministero dello Sviluppo Economico e destinato a tornare ai consumatori, quindi tornano ai consumatori sotto forma di iniziative del governo centrale e dei governi regionali, e una piccola parte, purtroppo molto piccola, di queste somme invece arriva alle associazioni dei consumatori, a patto che queste realizzino dei progetti educativi. Occhi Aperti, che nasce oggi, nasce proprio in questo filone. Quindi è un bel modo per dire ai cittadini che è l'impresa che sta pagando il nostro lavoro, non sono soldi pubblici, non sono soldi dell'erario, non sono i cittadini a pagare il nostro lavoro con le tasse, ma sono proprio quelle imprese scorrette che si sono macchiate di comportamenti che hanno danneggiato la collettività. Insomma, saranno invogliate a comportarsi meglio per il futuro. Vigileremo sul vostro progetto. Avvocato, intanto buona giornata e buona presentazione. A presto. Sono felice, grazie, arrivederci. Arrivederci e buona giornata. Alessandro. E allora, tra poco... Alle 12 a Salvadanaio ritorniamo sui mercati. Le borse sono state piuttosto ballerine in questi due giorni. Cos'è successo? Altri conti di società che arrivano dagli Stati Uniti non piacciono molto. Borse monitoreremo. Alle 8.33 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan. Uno sguardo alle notizie in primo piano. Innanzitutto l'India. Abbiamo sentito in GR24 che un gruppo di ribelli maoisti aveva sequestrato un treno. Proprio in questi istanti la televisione indiana riferisce che i ribelli maoisti hanno rilasciato tutti gli ostaggi nel treno dirottato questa mattina. Tutti i passeggeri, circa 700, sono salvi. Veniamo in Italia, parteciperò il 25 aprile perché di questa festa non si appropri solo una parte, l'annuncio del premier Berlusconi, che però non ha svelato dove sarà. Meglio tardi che mai, la replica del leader del PD, Franceschini. La cronaca: hanno lasciato i tre figli di 8 mesi, 2 e 4 anni in pizzeria e sono scappati. È successo domenica sera in periferia di Aosta, la coppia protagonista è tedesca, la madre di 26 anni e l'attuale compagno di 24. I bambini sono al momento affidati ai servizi sociali. Infine il calcio, stasera si torna a giocare dopo le polemiche sul razzismo negli stadi, in programma Lazio-Juventus, ritorno della finale, della semifinale di Coppa Italia, all'andata la Lazio vinse 2-1. Sono le 8:34, 349-238-6666, questo il numero per i vostri messaggi. Dunque, ieri sui giornali appare un'inserzione a pagamento. Lettera aperta al Presidente del Consiglio. Vogliamo solo lavorare, le parafarmacie. Si legge così. Un disegno di legge a firma dei senatori Gaspare e Tomassini in discussione al Senato si propone di riordinare il servizio farmaceutico nazionale. Il provvedimento prevede in sostanza di togliere l'oggetto dell'attività delle parafarmacie, il farmaco. Inoltre il progetto prevede di far vendere alcuni farmaci d'automedicazione nei supermercati senza la presenza del farmacista. Tutto questo, si legge nell'inserzione a pagamento, conseguenza di tutto questo sarà la chiusura di 2.750 aziende aperte nel 2006, la perdita di 5.000 posti di lavoro. Le parafarmacie, che come sapete sono figlie del decreto Bersani, sono circa 2.700 appunto, 2.500 in Italia, il 15% nella grande distribuzione, che possono distribuire che cosa? Non farmaci, ma punti vendita che distribuiscono per esempio i farmaci senza obbligo di ricetta, eccetera. Questo allarme è un appello al Presidente del Consiglio. Caro Silvio Berlusconi, ritolga quella legge, perché altrimenti chiudiamo. Io voglio salutare Vincenzo De Vito, che è il presidente del Movimento Nazionale Liberi Farmacisti. Buongiorno De Vito. Buongiorno. Lei ha firmato, diciamo, questo provvedimento. Perché questo grido d'allarme? Davvero dice vi vogliono chiudere? Beh, credo che sia la verità, effettivamente. Credo che un governo liberale abbia, oppure che si vanta di essere liberale, penso che abbia il dovere, ecco, considerato anche l'economia italiana in questo momento, di tenere aperte queste strutture che sono venute fuori da questa legge e che 5.000 addetti ai lavori non vadano sul lastrico. Ma perché dice che vogliono chiudere? Tra l'altro la linea è anche un po' imperfetta, la linea telefonica. Perché dice che vogliono chiudere? In cosa consiste secondo lei questo provvedimento, la cosa per cui sarete costretti a chiudere? Beh, questo provvedimento rimette in moto tutto quanto un privilegio delle farmacie, dei titolari di farmacia, e cercando effettivamente di evitare che altri addetti ai lavori, e quindi che favoriscono una concorrenza per il cittadino, possano effettivamente svolgere appunto la normale funzione, quindi quella di fare il farmacista, quella di produrre una concorrenza a favore dei cittadini. E questo, c'è la paura, c'è una paura che una concorrenza professionale possa minare praticamente un privilegio acquisito dalle farmacie titolari. È soltanto questo il problema. Perché voi dite vogliono mettere il farmaco nella grande distribuzione togliendoci? Cioè io non ho capito veramente il punto per il quale dite siamo costretti a chiudere. Certo, perché confezionare delle confezioni starter, si chiamano, cioè sono con meno capsule di un determinato farmaco, e sempre farmaco si tratta. Beh, penso che non porterà da nessuna parte, cioè effettivamente questo non sarà una concorrenza, perché sono due cose diverse. Il farmacista titolare, imbrogliando e lucrando ancora la gente, dirà questi farmaci sono diversi da quelli della grande distribuzione. La paura è la presenza del farmacista. Non capisco perché dove si manovra e dove si gestisce un farmaco non ci debba essere il farmacista. Questo è qualcosa che io non riesco a capire. Cioè, ripeto, sarò ottuso, De Vito. Io non ho ancora capito perché lei dice, cioè secondo lei con questo provvedimento si vogliono distribuire i farmaci fuori dalle farmacie, ma non nelle parafarmacie ma nella grande distribuzione, tagliandovi fuori? Certo. Oh, ecco, così. Adesso così l'ho capita meglio. Tra l'altro ci ha raggiunto, lo saluto, il sottosegretario al welfare con delega alla salute, Ferruccio Fazio. Sottosegretario, buongiorno. Buongiorno. Allora, avrà visto anche lei, insomma, questo appello, perché poi l'appello è un invito proprio al Presidente del Consiglio, dicendo la legge non è del governo, è di due esponenti della maggioranza. Però, caro Presidente, la fermi, perché se passa questa legge chiudiamo tutti. Lei che replica? Ma io dico questo, è stato, io credo, molto opportuno l'introduzione da parte del governo precedente della distribuzione extra farmacie dei farmaci da banco e degli OTC. E questa è una cosa che c'è in tutti i paesi e deve esserci. La cosa curiosa che c'è solo nel nostro paese è la terza via, cioè queste parafarmacie. Nessuno dice che vuole chiudere le parafarmacie, ma qui ci devono essere le farmacie, a nostro avviso, no? O la grande distribuzione, perché la terza via cos'è di fatto? È un modo per poi cercare di trasformare, diciamo, sotto banco la parafarmacia in farmacia. Ora, questi sono sistemi all'italiana che non servono a nessuno poi alla fine della fiera. Quindi noi vogliamo semplicemente razionalizzare. A questo scopo abbiamo chiesto di fare un tavolo comune alle parafarmacie, alle farmacie, eccetera. Però le parafarmacie sono restie a mettersi in discussione per le stesse confuse argomentazioni che lei stessa ha sentito poco fa. Allora io faccio proprio un invito, signori, nessuno vuole togliere dei privilegi a nessuno, creare dei privilegi a nessuno, ma a un certo momento vediamo chiarificare, di razionalizzare quello che è l'offerta dei farmaci. Allora c'è un problema di farmaci in farmacia con ricetta e un problema di distribuzione. La distribuzione può avere o può non avere il farmacista, ma al di là di questo, nessuno dice che la grande distribuzione non può avere il farmacista. Ma due sono le cose. Uno, il termine parafarmacia, che è un termine quantomeno curioso, diciamo, e che forse c'è, non so se c'è da altre parti, ma se c'è in altri paesi è una cosa comunque episodica. L'altra cosa è di avere tre veramente nessuno vede il motivo di questo. Lei dice o la farmacia o la grande distribuzione, no, e voi siete aperti, le due vie. La farmacia e la grande distribuzione entrambe ci devono essere, nessuno vuole vietare alla grande distribuzione di avere il farmacista. Però la parafarmacia che lei dice, cioè, insomma, è stata creata figlia della lenzuolata di Bersani, che facciamo? Effettivamente uno l'ha aperta, dovrebbero, a mio avviso, no, comunque facciamo un tavolo e vediamo, noi siamo aperti a tutto, potrebbero diventare o farmacie o grande distribuzione. Le chiedo, sottosegretario, lei ha detto il termine, io qua sotto mano un'intervista che ha fatto Gasparri, uno dei due promotori di questo progetto di legge, al settimanale autorevole, al settimanale Economy, proprio sul termine dice, effettivamente forse non è una battuta felicissima, però la voglio sottoporre a lei. Dice Gasparri: io non mi sottoporrei mai a un intervento di chirurgia da parte di un paramedico, così come nessuno si rivolge a un para ingegnere per costruire un para ponte o a un para avvocato per una para causa. Dunque non vedo perché dovrei acquistare medicinali veri in una para farmacia. Sottosegretario, si sono un po' arrabbiati i titolari delle parafarmacie, ma noi siamo farmacisti in tutto e per tutto, insomma. Allora, perché non si chiamano farmacisti perché parafarmacisti? Questo è quello che io non riesco a capire. Sentiamo, De Vito, voi vi siete arrabbiati per questa definizione, questa dichiarazione di Gasparri, al di là usciamo poi del caso personale, però ha sentito il sottosegretario a dire cioè quelle sono le due vie, grande distribuzione e farmacia, questo permette anche di avere prezzi più ragionevoli, quindi liberalizzazione, abbassare i prezzi, concorrenza dei farmaci, quindi i consumatori sono tutelati. Perché dovremmo sposare la vostra di battaglia in questo momento? A parte il fatto che non stiamo parlando di pasti alla crema, ma stiamo parlando di farmaci e farmacisti, uno. Due, io credo che non ci sarebbe da scandalizzarsi soltanto su quello che ha detto Gasparri, perché sappiamo Gasparri che è. Se tiene conto che Gasparri votò sì per l'uscita dei farmaci di fascia C, fuori farmacie, è tutto dire. Per quanto riguarda invece Fazio, ma mi sembra effettivamente che o non abbia capito il problema, oppure evidentemente non sa cosa significa parafarmacia. Lo sanno molto bene i cittadini, che hanno risparmiato tantissimo con le parafarmacie. Ma si potrebbe... Io non so cosa dice Fazio, Fazio sa effettivamente. Io so soltanto che Fazio ha aperto un tavolo affidando la coordinazione a un farmacista titolare, figuriamoci. E perché non fate parte di questo tavolo? No, facciamo parte di questo tavolo, ci mancherebbe altro. Sappiamo perfettamente cosa ha detto la nostra federazione e il movimento, e sappiamo benissimo anche cosa ha detto Fazio, cioè questo è il problema. Ecco perché dico, penso che non abbia capito. Poi il fatto di trasformare queste parafarmacie in farafarmacie, come lui dice, io credo che questa sia una grossa bufala effettivamente. Cioè lei non vorrebbe trasformare la sua parafarmacia? Lei non si può trasformare. Non si può, ma Fazio non sa perfettamente cosa significa farmacia soprannumeraria. Fazio all'inizio non sa perfettamente cosa significa. Beh, insomma, adesso... Ma del resto è così, effettivamente. Come si fa a conoscere, come si fa a sapere se non ci sta dentro? Il cittadino sa cos'è una parafarmacia. Vabbè, e sottosegretario Fazio, vuole replicare? Abbiamo un minuto, poi mi dica come... No, no, beh, se, ma se direi che voglio dire, sai, l'intervista si sta commentando da sola, voglio dire, chi... Le cose sono molto chiare, io ho detto qui occorre razionalizzare e occorre avere la situazione che c'è in tutti gli altri paesi del mondo. Siamo chiaramente in favore dei farmaci da banco, cerchiamo di fare le cose semplici per i cittadini. Avere delle strutture che servono soltanto come porta d'ingresso surrettizia per poi aprire e poter diventare farmacie, mi risulta, non so se è vero, che da quando noi abbiamo aperto il tavolo si aprono 3 o 4 parafarmacie al giorno, tutte ad opera di farmacisti che sperano di poter aprire una seconda farmacia. Ma queste sono cose italiane che sono ridicole, quindi non so se è vero o no. Queste sono delle notizie che mi sono arrivate, quindi può darsi che non siano vere, non vorrei essere... Un'ultima domanda flash, sottosegretario. I consumatori sono tutelati dal punto di vista dei prezzi, secondo lei, anche con questa legge Gasparri-Tomasini? Guardi, allora io vorrei, a parte la legge Gasparri-Tomasini che sicuramente tutela il consumatore dal punto di vista dei prezzi, colgo l'occasione per dire un'altra cosa, è che noi anche proprio come governo ci dobbiamo impegnare ad aumentare l'uso dei farmaci generici, ecco, quindi questo è un discorso molto importante che è anche attuale, che è sulla stampa, è tangenziale a questo discorso che abbiamo fatto oggi. Perché aumentare, in che senso? Cioè impegnarsi. Perché per tutelare i cittadini e quindi ridurre i costi praticamente della farmaceutica, farmaci generici, e in Italia, come è noto, l'Italia fa nell'indo di coda dal punto di vista, certo, dei farmaci generici. Certo. Ma questo credo che siamo tutti d'accordo, noi le farmacie, le farmacie. Su questo sì, perché i farmaci generici hanno lo stesso effetto ma costano meno, e sicuramente da questo punto di vista. In che cosa, sottosegretario? Cioè, state studiando, c'è qualche provvedimento al riguardo che ci può... No, abbiamo già fatto un provvedimento sugli estrasconti dei generici, ma adesso stiamo anche studiando di lavorare con i medici per incentivare a prescrivere più generici. Perfetto. La ringrazio, sottosegretario al welfare, sulla salute, Ferruccio Fazio, così come Vincenzo De Vito, presidente del Movimento Nazionale delle Libere, Nazionale Liberi Farmacisti, autore tra l'altro di questa inserzione a pagamento. Ne vi seguiremo, insomma, in questa battaglia, insomma, questa cosa che voi fate per dire attenzione, perché ci vogliono chiudere se passa questo provvedimento. Non abbiamo più la forza per poter competere e quindi ci vogliono chiudere con 5.000 posti di lavoro che verrebbero persi. Le 8:48 minuti, l'ultima parte di 24 mattino. Allora, quando ci fu un'inchiesta delle Iene qualche tempo fa, un paio d'anni fa, poi replicata, si titolò Il Parlamento del Lavoro Nero, no? Nell'occhio del ciclone i parlamentari e gli assistenti parlamentari in nero, quelli che volgarmente vengono chiamati in portaborse. So tra l'altro che questo è un termine che non piace a chi fa questo lavoro. Io voglio salutare anche Francesco Comellini, che è un collaboratore parlamentare. Comellini, portaborse non va bene, no? Collaboratore parlamentare. È offensivo, è come se io la chiamassi radioamatore invece che giornalista radiofonico. Perfetto, radioamatore, ma mi sta bene, va bene. Collaboratore parlamentare, tra l'altro presidente dell'Associazione Nazionale Collaboratori Parlamentari, nata a Roma l'8 aprile, da poco. Quindi, assolutamente. Un'associazione nata da poco. Allora, le Iene ci sono tornate, tra l'altro, di recente a fare un'inchiesta molto molto ben fatta sulla questione. Per esempio, hanno raccolto anche testimonianze. Una testimonianza la vogliamo proporre, che ha raccolto Filippo Roma, una testimonianza anonima di una collaboratrice parlamentare, un collaboratore parlamentare. Tra un attimo la sentiamo. Allora, la novità è questa. Il presidente Schifani ieri ha detto: troppi collaboratori parlamentari sono in nero e quindi vanno sistemati. Quanti siete i collaboratori parlamentari, come lì? I dati che ho io di collaboratori parlamentari con regolare contratto, ovviamente di diversa natura, qui alla Camera dovrebbero essere un 138 circa. Il resto non mi risulta. Che poi la Camera rilasci degli accessi a delle persone sulla base di più o meno fantomatici contratti o di volontariato, beh, questa è una responsabilità, diciamo, dell'istituzione, la Camera e il Senato si intende, è una responsabilità dell'istituzione parlamentare. Certo, determinati tipi di accessi vanno concessi, che sono quelli al funzionariato dei partiti. Però ovviamente quelle persone non possono vantare un tipo di rapporto diretto con la Camera, né tantomeno alla situazione attuale lo possono vantare i collaboratori. Insomma. Allora, sentiamo questa testimonianza che Filippo Roma delle Iene ha raccolto, una delle testimonianze dei collaboratori. Che fai nella vita? Faccio l'assistente parlamentare per un senatore. Da quanti anni? Da 5 anni. Sei in regola? No, assolutamente no. In che senso? Nel senso che prendo 700 euro al mese senza contratto, quindi senza versamento di nessun contributo. Tutto in nero? Tutto in nero. Quante ore lavori al giorno? Lavoro 9-10 ore al giorno senza nessuna interruzione, quindi senza pausa pranzo e spesso anche nei weekend. E che diritti hai? Nessuno, non ho versamento di contributi, quindi non avrò una pensione, non ho la malattia, non ho le ferie pagate, non posso avere la maternità. E i tuoi colleghi portaborse sono in regola o sono in nero? Ma io ne conosco decine e decine, di tutti questi nessuno ha un contratto. Allora, Comellini, ci sono questi casi? Immagino di sì. Sì, ci sono sicuramente. E come è possibile? Io dubito sempre delle testimonianze nascoste dall'anonimato. Ora, l'Italia è un paese che ha una legislazione sul lavoro decisamente avanzata. Bene, se queste persone rivendicano dei diritti e hanno un rapporto in nero, vadano dal giudice e facciano le azioni conseguenti. Però anche lo stesso Schifani, anche Fini hanno detto che è un problema annoso, è un problema che c'è, insomma. Sì, no? È un problema che c'è, però guardi, lei pensi questo, che purtroppo chi fa giornalismo dovrebbe anche fare educazione, diciamo, dell'immaginario collettivo, no? E questo mi riferisco alla parola portaborse, che io considero spregiativa, quindi utilizziamo il termine esatto, che è collaboratore parlamentare. Ebbene, i famosi soldi che le Iene dicono, o molti dicono sì, hanno dei soldi per il collaboratore, non è vero. Il parlamentare ha un gettone, un plafond mensile per le spese di collegio. Di quanto? Credo sui 4.000 euro? 4.190 euro alla Camera e 4.600 circa al Senato. Sì. Bene, queste spese, questi soldi, un tempo, credo prima del 96, la norma la cambiò Luciano Violante, presidente della Camera, era destinata alle spese di segreteria e dei collaboratori. Venne cambiata dopo e qui si creò, diciamo, si aprì un baratro, perché oggi come oggi il rapporto tra collaboratore e deputato è un rapporto di tipo contrattuale tra due soggetti che è gestito dagli articoli del Codice Civile. Sì. Punto, non ci piove. Quindi poi sta alla correttezza delle persone attuare un contratto regolare e quindi anche alla professionalità di chi offre una prestazione. Questo sì, però voglio dire, sa cosa mi stupisce? Giustamente noi si guarda sempre al Parlamento da quando c'è la casta con un occhio d'attenzione, anzi con mille occhi d'attenzione, però che nel Parlamento, che ci sono, dove stanno le persone che devono fare le leggi, insomma, ci siano persone che violano le leggi. Io le voglio far ascoltare anche questa, insomma, una testimonianza un po' più datata, viene citata come il caso, insomma, un po' limite, no? Di questo deputato, credo Carlo Ciccioli di AN, ora immagino PDL, sempre preso da Filippo Roma, no? Sentiamo. La politica ha dei grossi costi e quindi ognuno si arrangia. La regola è il rimborso spese, a meno che quelli sotto che nessuna forma contrattuale, così sono soldi e vengono dati, diciamo, per busta, si dà qualcosa così nero. È quello che succede, è l'Italia. Questo l'ha detto un parlamentare, insomma, un po' di soldi fuori busta, è quello che succede. A questo punto, mi scusi, quando un parlamentare ammette o comunque rappresenta una situazione illegale all'interno del Parlamento italiano, dove dovrebbe essere tutto trasparente e legale, e io credo che i presidenti del Senato attuale e della Camera, cioè Schifani e Fini, abbiano realmente intenzione di segnare un drastico cambio speriamo. Rispetto alle precedenti. No, ma io speriamo, so che ieri lei come presidente dell'associazione ha incontrato Schifani, insomma. È stato un colloquio molto cordiale, dove il Presidente ci ha rappresentato le decisioni, ci ha confermato l'intenzione di procedere in step by step in una regolarizzazione della situazione che in effetti esiste, cioè non bisogna nascondersi dietro, però qui bisognerebbe anche andare a a responsabilizzare il parlamentare rispetto a quelli che sono i diritti e i doveri e la dignità soprattutto del lavoro. Infatti ANCOPARL si prefigge l'obiettivo principale di un riconoscimento professionale dell'attività. Senta, ho un'ultima cosa, mi risponda però Flash, perché su Italia Oggi c'è scritto che, attenzione, se regolarizziamo con contratto la Camera, poi fioccano le cause. L'articolo perché di Becchi, se lo stavo leggendo. Per dire tutti, che assumeteci tutti i dipendenti della Camera. No, assolutamente non è così. Se il Parlamento italiano seguisse quanto è stato fatto dal Parlamento europeo, che precedentemente ha fatto un'analisi su tutti i parlamenti europei e non europei, per intenderci quello americano, la situazione sarebbe realmente diversa. Potrebbe è possibile regolarizzare se si fa un contratto a termine e si pone come agente temporaneo o come funzionario temporaneo. Bene, il contratto è regolato da precise norme, l'Unione Europea l'ha già fatto questo. Perfetto. Con una semplice modifica del regolamento. Mi devo fermare, Comellini, torneremo, vedremo se da luglio, allora, come ha detto Schifani, dal primo luglio nessuno che non avrà un contratto regolare potrà entrare come assistente parlamentare, come insomma dipendente alla Camera e al Senato. Grazie Francesco Comellini, ci fermiamo qui, ho rubato 30 secondi, tra poco Giuliano Ferrara, la TV, l'importanza della TV, i nuovi miti che crescono la TV, X-Factor, Actor, sapete, no? Il Grande Fratello. Di questo si parla, noi ci ritroviamo domattina.